Ottobre 1944. Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide. A ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco. Ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere e di fili. E stamattina è inverno. Noi sappiamo che cosa vuol dire, perché eravamo qui l'inverno scorso, e gli altri lo impareranno presto. Vuol dire che, nel corso di questi mesi, dall'ottobre all'aprile, su 10 di noi, 7 morranno. Chi non morrà, soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno, per tutti i giorni. Dal mattino avanti l'alba, fino alla distribuzione della zuppa serale, dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro, sbattersi le braccia sotto le ascelle per resistere al freddo. Dovrà spendere pane per procurarsi guanti e perdere ore di sonno per ripararli quando saranno scuciti. Poiché non si potrà più mangiare all'aperto, dovremo consumare i nostri pasti nella baracca, in piedi, disponendo ciascuno di un palmo di pavimento e appoggiarsi sulle cuccette è proibito. A tutti si apriranno ferite sulle mani. E per ottenere un bendaggio bisognerà attendere ogni sera per ore, in piedi, nella neve e nel vento. Come questa nostra fame non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di aver freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno, e sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano, godendo e soffrendo, nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato, e di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento, sotto zero, con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela, e in corpo debolezza e fame, e consapevolezza della fine che viene. In quel modo con cui si vede finire una speranza, così stamattina è stato inverno. Ce ne siamo accorti quando siamo usciti dalla baracca per andarci a lavare. Non c'erano stelle. L'aria buia e fredda aveva odore di neve. In piazza dell'Appello, nella prima luce, alla dunata per il lavoro, nessuno ha parlato. Quando abbiamo visto i primi fiocchi di neve, abbiamo pensato che, se l'anno scorso a quest'epoca ci avessero detto che avremmo visto ancora un inverno in lager, saremmo andati a toccare il reticolato elettrico, e che anche adesso ci andremmo, se fossimo logici. Se non fosse di questo insensato, pazzo residuo di speranza inconfessabile. Perché inverno vuol dire altro ancora. La primavera scorsa, i tedeschi hanno costruito due enormi tende in uno spiazzo del nostro lager. Ciascuna, per tutta la buona stagione, ha ospitato più di 1000 uomini. Ora le tende sono state smontate e 2000 ospiti in soprannumero affollano le nostre baracche. Noi vecchi prigionieri sappiamo che queste irregolarità non piacciono ai tedeschi e che presto qualcosa succederà perché il nostro numero venga ridotto. Le selezioni si sentono arrivare. Selezia, la ibrida parola latina e polacca, si sente una volta, due volte, molte volte, intercalata in discorsi stranieri. Dapprima non la si individua, poi si impone all'attenzione, infine ci perseguita. Stamattina i polacchi dicono Selezia. I polacchi sono i primi a sapere le notizie e cercano in genere di non lasciarle diffondere, perché sapere qualcosa mentre gli altri non la sanno ancora può sempre essere vantaggioso. Quando tutti sapranno che la selezione è imminente, il pochissimo che qualcuno potrebbe tentare per defilarsi, corrompere con pane o con tabacco qualche medico o qualche prominente, passare dalla baracca in cabè o viceversa al momento esatto in modo da incrociare la commissione, sarà già monopolio loro. Nei giorni che seguono, L'atmosfera del lager e del cantiere è satura di selezia. Nessuno sa nulla di preciso e tutti ne parlano, perfino gli operai liberi, polacchi, italiani, francesi, che di nascosto vediamo sul lavoro. Non si può dire che ne risulti un'ondata di abbattimento. Il nostro morale collettivo è troppo inarticolato e piatto per essere instabile. La lotta contro la fame, il freddo, il lavoro lascia poco margine per il pensiero, anche se si tratta di questo pensiero. Ciascuno reagisce a suo modo, ma quasi nessuno con quegli atteggiamenti che sembrerebbero più plausibili perché sono realistici, e cioè con la rassegnazione o con la disperazione. Chi può provvedere, provvede, ma sono i meno, perché sottrarsi alla selezione è molto difficile. I tedeschi fanno queste cose con grande serietà e diligenza. Chi non può provvedere materialmente cerca difese altrimenti. Ai gabinetti, al lavatoio, noi ci mostriamo l'un l'altro il torace, le natiche, le cosce, e i compagni ci rassicurano. Puoi essere tranquillo, non sarà certo la tua volta. Du bist kein Muselmann. Io piuttosto, invece, e a loro volta si calano le brache e sollevano la camicia. Nessuno nega altrui questa elemosina. Nessuno è così sicuro della propria sorte da avere animo di condannare altri. Anch'io ho sfacciatamente mentito al vecchio Wertheimer. Gli ho detto che se lo interrogheranno, risponda di avere 45 anni e che non trascuri di farsi radere la sera prima, anche a costo di rimetterci un quarto di pane. Che, a parte ciò, non deve nutrire timori, e che d'altronde non è per nulla certo che si tratti di una selezione per il gas. Non ha sentito dal blocco al tester che i prescelti andranno a Javorzno al campo di convalescenza? È assurdo che Wertheimer speri. Dimostra 60 anni, ha enormi varici, non sente quasi neppur più la fame, eppure se ne va in cuccetta sereno e tranquillo, e a chi gli fa domande risponde con le mie parole. Sono la parola d'ordine del campo in questi giorni. Io stesso le ho ripetute come, a meno di particolari, me le sono sentite recitare da Shahim, che è in lager da 3 anni, e siccome è forte e robusto, è mirabilmente sicuro di sé. E io l'ho creduto. Su questa esigua base, anch'io ho attraversato la grande selezione dell'ottobre 1944 con inconcepibile tranquillità. Ero tranquillo perché ero riuscito a mentirmi quanto era bastato. Il fatto che io non sia stato scelto è dipeso soprattutto dal caso e non dimostra che la mia fiducia fosse ben fondata. Anche Monsieur Pinquier è a priori un condannato. Basta vedere i suoi occhi. Mi chiama con un cenno e con aria confidenziale mi racconta che ha saputo, da qual fonte non mi può dire, che effettivamente questa volta c'è del nuovo. La Santa Sede, per mezzo della Croce Rossa Internazionale. Infine, garantisce lui personalmente che, sia per sé che per me, nel modo più assoluto, è escluso ogni pericolo. Da civile lui era, come è noto, addetto all'ambasciata belga di Varsavia. In vari modi, dunque, anche questi giorni di vigilia, che raccontati sembra dovessero essere tormentosi al di là di ogni limite umano, passano non molto diversamente dagli altri giorni. La disciplina del lager e della buna non sono in alcun modo allentate. Il lavoro, il freddo e la fame sono sufficienti a impegnare senza residui le nostre attenzioni. Oggi è domenica lavorativa, Arbeitssonntag. Si lavora fino alle 13, poi si ritorna in campo per la doccia, la rasatura e il controllo generale della scabbia e dei pidocchi, e in cantiere, misteriosamente, tutti abbiamo saputo che la selezione sarà oggi. La notizia è giunta, come sempre, circondata da un alone di particolari contraddittori e sospetti. Stamattina stessa c'è stata selezione in infermeria. La percentuale è stata del 7% del totale, del 30%, del 50% dei malati. A Birkenau il camino del crematorio fuma da 10 giorni. Deve essere fatto posto per un enorme trasporto in arrivo dal ghetto di Posen. I giovani dicono ai giovani che saranno scelti tutti i vecchi. I sani dicono ai sani che saranno scelti solo i malati. Saranno esclusi gli specialisti. Saranno esclusi gli ebrei tedeschi. Saranno esclusi i piccoli numeri. Sarai scelto tu. Sarò escluso io. Regolarmente, a partire dalle 13 in punto, il cantiere si svuota e la schiera grigia interminabile sfila per 2 ore davanti alle 2 stazioni di controllo, dove come ogni giorno veniamo contati e ricontati, e davanti all'orchestra, che per 2 ore senza interruzione suona come ogni giorno le marce sulle quali dobbiamo, all'entrata e all'uscita, sincronizzare i nostri passi. Sembra che tutto vada come ogni giorno. Il camino delle cucine fuma come di consueto, già si comincia la distribuzione della zuppa, ma poi si è udita la campana, e allora si è capito che ci siamo. Perché questa campana suona sempre all'alba, e allora è la sveglia, ma quando suona a metà giornata vuol dire Blocksperre, clausura in baracca, e questo avviene quando c'è selezione, perché nessuno vi si sottragga, e quando i selezionati partono per il gas, perché nessuno li veda partire. Il nostro blocco, il tester, conosce il suo mestiere, si è accertato che tutti siano rientrati, ha fatto chiudere la porta a chiave, ha distribuito a ciascuno la scheda che porta la matricola, il nome, la professione, l'età e la nazionalità, e ha dato ordine che ognuno si spogli completamente, conservando solo le scarpe. In questo modo, nudi e con la scheda in mano, attenderemo che la commissione arrivi alla nostra baracca. Noi siamo la baracca 48, ma non si può prevedere se si comincerà dalla baracca 1 o dalla 60. In ogni modo, per almeno un'ora possiamo stare tranquilli, e non c'è ragione che non ci mettiamo sotto le coperte delle cuccette per riscaldarci. Già molti sonnecchiano quando uno scatenarsi di comandi, di bestemmie e di colpi indica che la commissione è in arrivo. Il blocco, il tester e i suoi aiutanti, a pugni e a urli, a partire dal fondo del dormitorio, si cacciano davanti la turba dei nudi spaventati e li stipano dentro il Tagesraum, che è la direzione fureria. Il Tagesraum è una cameretta di 7 metri per 4. Quando la caccia è finita, dentro il Tagesraum è compressa una compagine umana calda e compatta, che invade e riempie perfettamente tutti gli angoli, ed esercita sulle pareti di legno una pressione tale da farle scricchiolare. Ora siamo tutti nel Tagesraum, e oltre che non esserci tempo, non c'è neppure posto per avere paura. La sensazione della carne calda che preme tutto intorno è singolare e non spiacevole. Bisogna aver cura di tenere alto il naso per trovare aria e di non spiegazzare o perdere la scheda che teniamo in mano. Il blocco, il tester, ha chiuso la porta Tagesraum dormitorio e ha aperto le altre 2 che dal Tagesraum e dal dormitorio danno all'esterno. Qui, davanti alle 2 porte, sta l'arbitro del nostro destino, che è un sottufficiale dell'SS. A destra il blocco, il tester, a sinistra il furiere della baracca. Ognuno di noi, che esce nudo dal Tagesraum nel freddo dell'aria di ottobre, deve fare di corsa i pochi passi fra le 2 porte davanti ai 3, consegnare la scheda alla SS e rientrare per la porta del dormitorio. La SS, nella frazione di secondo fra 2 passaggi successivi, con uno sguardo di faccia e di schiena, giudica della sorte di ognuno e consegna a sua volta la scheda all'uomo alla sua destra o all'uomo alla sua sinistra, e questo è la vita o la morte di ciascuno di noi. In 3 o 4 minuti una baracca di 200 uomini è fatta, e nel pomeriggio l'intero campo di 12.000 uomini. Io, confitto nel carnaio del Tagesraum, ho sentito gradualmente allentarsi la pressione umana intorno a me, e in breve è stata la mia volta. Come tutti, sono passato con passo energico ed elastico, cercando di tenere la testa alta, il petto in fuori, e i muscoli contratti e rilevati. Con la coda dell'occhio ho cercato di vedere alle mie spalle, e mi è parso che la mia scheda sia finita a destra. A mano che rientriamo nel dormitorio, possiamo rivestirci. Nessuno conosce ancora con sicurezza il proprio destino. Bisogna anzitutto stabilire se le schede condannate sono quelle passate a destra o a sinistra. Ormai non è più il caso di risparmiarsi l'un l'altro e di avere scrupoli superstiziosi. Tutti si accalcano intorno ai più vecchi, ai più denutriti, ai più musulmani. Se le loro schede sono andate a sinistra, la sinistra è certamente il lato dei condannati. Prima ancora che la selezione sia terminata, tutti già sanno che la sinistra è stata effettivamente la schlechte Seite, il lato infausto. Ci sono naturalmente delle irregolarità. René, per esempio, così giovane e robusto, è finito a sinistra. Forse perché ha gli occhiali, forse perché cammina un po' curvo come i miopi, ma più probabilmente per una semplice svista. René è passato davanti alla commissione immediatamente prima di me e potrebbe essere avvenuto uno scambio di schede. Ci ripenso, ne parlo con Alberto e conveniamo che l'ipotesi è verosimile. Non so cosa ne penserò domani e poi. Oggi essa non desta in me alcuna emozione precisa. Parimenti di un errore deve essersi trattato per Sattler, un massiccio contadino transilvano che 20 giorni fa era ancora a casa sua. Sattler non capisce il tedesco, non ha compreso nulla di quel che è successo e sta in un angolo a rattopparsi la camicia. Devo andargli a dire che non gli servirà più la camicia. Non c'è da stupirsi di queste sviste. L'esame è molto rapido e sommario e d'altronde, per l'amministrazione del Lager, l'importante non è tanto che vengano eliminati proprio i più inutili, quanto che si rendano speditamente liberi posti in una certa percentuale prestabilita. Nella nostra baracca la selezione è ormai finita, però continua nelle altre, per cui siamo ancora sotto clausura. Ma poiché frattanto i bidoni della zuppa sono arrivati, il blocco e il tester decide di procedere senz'altro alla distribuzione. Ai selezionati verrà distribuita doppia razione. Non ho mai saputo se questa fosse un'iniziativa assurdamente pietosa dei Blockelteste o un'esplicita disposizione delle SS, ma di fatto, nell'intervallo di 2 o 3 giorni, talora anche molto più lungo, fra la selezione e la partenza, le vittime a Monowitz-Auschwitz godevano di questo privilegio. Ziegler presenta la gamella, riscuote la normale razione, poi resta lì, in attesa. «Che vuoi ancora?» chiede il Blockelteste. Non gli risulta che a Ziegler spetti il supplemento. Lo caccia via con una spinta, ma Ziegler ritorna e insiste umilmente. «È stato proprio messo a sinistra. Tutti l'hanno visto. Vada il Blockelteste a consultare le schede. Ha diritto alla doppia razione. Quando l'ha ottenuta, se ne va quieto in cuccetta a mangiare». Adesso ciascuno sta grattando attentamente col cucchiaio il fondo della gamella per ricavarne le ultime briciole di zuppa, e ne nasce un tremestio metallico sonoro, il quale vuol dire che la giornata è finita. A poco prevale il silenzio, e allora, dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa, e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non vede nella cuccetta accanto Beppo, il greco, che ha 20 anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa. E se ne sta sdraiato, e guarda fisso la lampadina senza dire niente, e senza pensare più niente. Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta. Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai più. Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn.